Ah, vedi, avuto gente lì, la prenderà Sai cosa bene. mi succede? Becca la dice. Cioè, ho tassi hai, cioè, molto in là, è campo Roma, cominciamo a mettere, campo Roma, con io mi metto 30, quasi 50 km che tu hai. Cioè, la se croquis guau. Però, e cosa è, pensa a tomare la linea norte, però campo Roma, la è, ape, ya ha llegado, ya Oye, llegué, oye. ya llegué en Filadelfia, ape, ya ensayan de código, ya mojé campo a los papeles, ape, ya, y fácil de más, ya, derecho, ape, ya, ape, ya, ya no pude más.